Come cani senza padrone, parole e musica per Pierpaolo con Tony Allotta e Bianca La Iorona Giovannini, per una performance che andrà in scena domani, mercoledì 2 novembre, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in due momenti diversi. Questa di oggi è stata un ensemble, ma prima invece nel tardo pomeriggio ci sarà Tony Allotta e poi la banda Iorona in serata al Teatro Quarticciolo. Intanto ben ritrovati, grazie di essere qui, grazie. Complimenti. Partiamo dalle tracce che abbiamo ascoltato, ci dici quali erano? Abbiamo ascoltato la 10, la 3, la 5, sì, la 12. Come dicevo, essendo un capricorno mi ero scritta prima, seconda, terza, quarta. Purtroppo, per quanto cerchi di essere punk, alla fine torno sempre a questa precisione. Terribile il mio stress. Allora, la prima, questi sono brani che vengono dal nostro ultimo disco edito, che si chiama Metteci Sopra, della Goodfellas del 2012. Noi facciamo ricerca da moltissimi anni, quindi mentre il primo disco, che si chiamava Romana del 2004, riguardava un po' la tradizione, soprattutto abbiamo lavorato sulle canzoni di malavita, sulle canzoni di carcere che a Roma sono così rilevanti. Nel secondo disco, questo appunto Metteci Sopra, abbiamo cominciato a esplorare un po' l'autoria, quindi molti dei nostri componenti hanno scritto, abbiamo chiesto aiuto a terzi, eccetera. E da questo sono nate queste canzoni che in questo caso credo che invece fit together, sì, con il testo, sì, di Pasolini, sì, in maniera abbastanza precipua, insomma. Qual era il titolo? Allora, la prima si chiamava La Stecca Para e l'autore è un poeta neodialettale che si chiama Pier Mattia Tommasino, l'autore del testo. E lui si interessa sempre anche di testi che riguardano un po' il senso della vita, non so, che quindi la morte, l'importanza di vivere, eccetera. La seconda invece è un pezzo tradizionale che racconta la potenza delle donne, un saltarello che si chiama Sonnata Sfortunata, dalla testimonianza di Graziella Di Prospero, che è una, diciamo, è la Gabriella Ferri del Lazio, come dico sempre. È scomparsa da un paio di anni. E la terza era quella che dà il titolo all'album, si chiamava Metteci Sopra, ed è anch'essa questo testo di questo poeta Pier Mattia Tommasino. Mentre l'ultima che abbiamo sentito adesso era Roma città persa, che è quella che noi, diciamo, la canzone sulla resistenza romana, che è una resistenza molto poco cantata. Ci sono vari discorsi, sì, da fare in merito, ma sì, insomma, quindi abbiamo deciso di scrivere una canzone. L'autrice è Ludovica Valori, che è la nostra collaboratrice e amica. Tony, la lettura era relativa alle, sì, ceneri di Gramsci. Le ceneri di Gramsci, sì. Per Paolo Pasolini, dici un po'. No, diciamo che quando ci eravamo sentiti al telefono ci eravamo detti che sarebbe durata mezz'ora, invece è durata molto meno, perché in realtà questo mi offre un po' l'occasione di spiegare da che cosa nasce la struttura di questa performance, cioè il fatto di stare in strada e per avere proprio la sensazione di come cambia una performance camminando, cioè muovendosi, e come cambia sia la percezione in chi ne fruisce, ma anche come cambia la performance assolutamente, muovendosi e stando all'aria aperta e stando soprattutto a contatto con un ambiente reale. Le ceneri di Gramsci, al di là del grosso valore politico che ha, insomma, come poema, in realtà mi sembra che sia un poema in cui Pasolini, come spesso fa anche nei romanzi e poi dopo nelle sceneggiature, voglio dire, le inquadrature della città sono proprio un protagonista altro, no, delle storie. Pasolini descrive spessissimo e con accuratezza l'ambiente, quindi mi piaceva usare questo testo poetico come se fosse una specie di guida, una guida di Roma, che però poi dopo diventa estremamente teatrale, pur essendo appunto un poema nato per essere letto magari o ad alta voce, però soprattutto nella solitudine, invece diventa teatrale perché noi in realtà non siamo a Testaccio ma siamo al Quarticciolo, quindi è molto interessante dire questi magri cipressi, e fatalità, forse ci stanno due cipressi davanti o forse ci stanno altri due alberelli di gelso, quelli che sono molto popolari a Roma. E devo dire che l'altra volta eravamo sempre al Quarticciolo, al parco di Tor Tre Teste, quando ho detto questi magri cipressi c'erano due magri cipressi, perché si vede che a Roma sono frequenti al di là dei cimiteri. Quindi insomma questa è un po' l'idea, E diciamo che questo incontro con Banda Iorona e questa prova che abbiamo fatto qui a Radio Onda Rossa, quindi forse poi diventerà un vero e proprio spettacolo in futuro, sarebbe il mio ideale, cioè mi piacerebbe tantissimo che a un certo punto da dietro un palazzo spunta la Banda Iorona amplificata col check sound perfetto, o come, cioè, che fa felici loro, perché per me la voce anche nuda è perfetta, insomma, è bella come quella di Bianca, insomma, quando canta libera. Ok, questo è un caffè pagato. Questo è un caffè pagato, però adesso ecco, mi piacerebbe arrivare a questa forma. Invece in passato è capitato che da una stazione all'altra, perché la struttura è quella della Via Crucis, quindi quello che voi avete sentito tutto un po' di seguito, inframmezzato appunto dalle canzoni di Banda Iorona, in realtà avviene in varie stazioni, quindi in vari punti del quartiere. Quindi noi è come andare a conoscere un luogo attraverso delle parole del passato. Domani è il giorno in cui Pasolini è stato ucciso, queste ore lui fra poche ore sarebbe venuto a San Lorenzo a mangiare da Pommidoro con Ninetto Davoli. E quindi insomma siamo in questa, e io stamattina quando ho visto questa bella giornata mi sono detto chissà se primo novembre era così bello e uno pensava che poi sarebbe morto. Bianca, ci racconti un po' dell'incontro con Tony, di questa interazione? Assolutamente, però diciamo, siccome poi con Tony c'è sempre un dibattito interessante, noi ci stimoliamo a vicenda. Io penso che, dunque, da quello che sappiamo, Pasolini aveva ricevuto tantissime minacce di morte, a parte la complessità della sua vita, aveva 33 processi aperti, 33, che andavano avanti da anni, per tutte le, praticamente quasi ogni cosa che faceva veniva messo in questione. C'era il lavoro su petrolio anche. C'era tantissime cose su cui lui era, praticamente quasi tutto quello che faceva era o censurato o ostacolato o veniva denunciato per questo, e sequestrate le pizze, succedeva costantemente. E lui aveva ricevuto moltissime minacce di morte ed era consapevole del rischio costante, e qualche mese prima era stato quasi linciato per strada, e casualmente non era da solo, cioè delle persone se ne sono accorte e hanno impedito che succedesse. Quindi io credo che lui avesse una profonda consapevolezza anche nel mangiare da pomidoro, probabilmente sapeva, e quando anche la Betty glielo chiedeva lui diceva che sapeva quello che faceva, non nel senso che si fosse premunito, ma probabilmente era consapevole che era una persona così provocatoria nella sua semplicità e bellezza. Tu dicevi sprezzante come aggettivo usato, io dicevo che era più sornione. È un aggettivo, vedo gli adesivi di Radio Città Rossa, di Radio Onda Rossa, ecco, del pure città è pieno, siamo pieni, e quindi la prima parola che mi è venuta in mente è adesivo, e invece è un aggettivo che usa lui. Okay. Sprezzante e perso, è che probabilmente sprezzante fa parte più del 1954, quando lui è un supplente a Ciampino e quindi vive una condizione quasi quando esce Ragazzi di vita, quando esce Ragazzi di vita, e probabilmente oggi e alla fine della sua vita forse era più sornione, no? Nell'aspettarsi un po' questo, soprattutto lui era moderno, contemporaneo, leggeva il futuro, l'abbiamo sempre detto che era un lettore del futuro, tant'è vero che le sue parole sono, cioè, mentre ti ascoltavo mi rendevo conto di quanto è moderno, cioè chi verrà con te, io purtroppo io sarò andato a fare il check in quel momento, quindi rosico, come si dice a Roma. Sì, perché è pazzesco quando stai infatti davanti alla città, nelle strade, dici queste parole, sembra che stai parlando effettivamente di adesso. Poi il Quarticciolo, che è un quartiere molto caldo, anche molto vivo, dove le persone appunto proprio per reagire probabilmente a un essere anche dimenticati a volte dalle amministrazioni, quindi ci sono tantissime iniziative di quartiere, tantissime organizzazioni spontanee, c'è un palazzo occupato, c'è una palestra popolare che è appena aperto, quindi ci stanno, c'è un comitato di quartiere, un centro anziani, la bocciofila, di tutto di più, un servizio di assistenza psicologica, tantissime cose. Ma quello che succede è che quando effettivamente la sera finisci di fare le prove, giri su via Palmiro Togliatti, le zoccolette, i rose che aspettano sopra la sporcizia afrodisiaca ci sono, che quindi quella testaccio del 1954 un pochino è ancora il quarticciolo di oggi, anche nella sua bellezza, cioè nella voglia di stare insieme. Quindi questo è incredibile come quelle parole, non credo che né io né Bianca, su questo ci siamo trovati, che non siamo dei nostalgici, siamo delle persone che però appunto prendono questa forza del passato e cercano in qualche modo di farla propria e di far sì che questa forza sia una forza appunto per l'oggi. Assolutamente, è talmente contemporaneo Pasolini, e chiudo, poi parliamo anche di come è strutturato lo spettacolo, che fa paura, fa ancora paura, e quindi il famoso frocio e comunista ha avuto la distruzione del monumento un anno fa esattamente, hanno distrutto a martellate la lapide del giardino Pasolini, questo per dimostrare quanto le parole del poeta sono talmente attuali che vengono contestate a martellate, insomma. Ancora bandaiorona, direi. Assolutamente. Tanta fatica ho fatto per essere me stessa. Rinunce, mal de panza, dubbi affolla. Ma sempre, da una certa in poi, ho dato retta alla mia panza. Al cuore e un poco pure al resto. Ma che ce posso fa se a volte mi dicono... Che parlo troppo, che bevo a garganella, che muovo le braccia come se non ci fosse un domani, che parlo poco, che strillo troppo, che canto piano, che dico parolacce, che esprimo i miei pensieri, che sono grassa, che dovrei mettere la gonna, che rido a tutta gola, che mangio prima di canta, che porto le superga e c'ho il sospetto, che guardo lì pischelli troppo a lungo, che vivo solo per i cani e per i gatti che non ho figli, che mi infiammo troppo in fretta, che abbozzo coi compagni, che non so di sinistra veramente perché ho messo Califano in trasmissione senza la giusta analisi critica, che indico gruppi di lavoro e poi lascio che vadano avanti senza di me. Ma io so me, io so me, io so me, ma che gioia, ma che gioia, io so me. Che per una ragazza non se fa, che sono troppo lideristica, che faccio molto gruppo, che sono strana, che amo troppo e un po' troppo, che non so stare da sola, che sto troppo da sola, che sono vecchia ma troppo giovanile, la gente si fida di me ma non mi crede, dicono che sono schiva, che sono simpaticissima, che sono una persona difficile, che sono vero femminista, che sono arcaico socialista, che sono troppo di sinistra, che sono legalitaria, che sono troppo schierata, che sono una donna autonoma ma troppo indipendente, che sono fragile, che sono forte, che rompo i coglioni, che faccio troppo i cani. Ma io so me, io so me, io so me, ma che gioia, io so me. Banda Iorona, io so me. Bianca. Sì, questo è un inedito che stiamo cominciando a far sentire, stiamo partendo con il terzo disco, fra poco partirà anche il crowdfunding. Il crowdfunding. Crowdfunding. Crowdfunding, cioè dateci soldi perché data la situazione attuale è molto difficile. Chi fa cose come me e Tony lavora in salita, diciamo, per passare un eufemismo. Allora, lo spettacolo comunque avverrà, abbiamo detto, in due parti, sì. Separatamente, ma cercando di costruire un percorso comunque che abbia una sequenzialità. Alle 18:30 quindi si parte davanti al Teatro Quarticciolo con Tony che inizia la sua passeggiata, poi lui avrà delle performer all'interno. Sì, io avendo pensato a questa Via Crucis, l'altra idea era quella di restituire poi una vitalità, diciamo, artistica romana attraverso gli artisti visivi. Quindi dalla prima volta che ho fatto questa performance ho fatto segnare delle stazioni con delle opere che sono nate appositamente per questa performance qui. L'altra volta ho avuto Pierre de Rain, che è questo giovane artista visivo filippino. Io non riesco a dire street artist perché non sono soltanto street artist. E poi anche Aloe la prima volta invece al Mandrione, quando l'abbiamo fatto. E devo dire che l'altra volta Aloe aveva chiuso l'ultima stazione con una drag queen bellissima che piangeva, e quella drag queen ha ricevuto uova e un cartello con scritto abusivo che però non era del comune di Roma, era di qualcuno un po' preoccupato di questa grossa, sta davanti al 30 formiche, ancora resiste. Invece la testa di Pasolini se n'è andata dall'opera che aveva fatto Claudio Aloa. Non devo dire il nome, però l'ho detto. L'hai detto. E questa volta invece ci sono con me Annalisa Macagnino, che è un'artista visiva, e Gil Viarollo, che invece lavora sul suono. Quindi noi quello che faremo è che Annalisa lavorerà su una lavagna digitale e le sue opere saranno live durante la performance delle ceneri proiettate sui palazzi del Quarticciolo, e la voce mia sarà prima amplificata semplicemente, poi presi degli estratti e remixati con una sorpresa finale che non vi dico, con cui si chiude la performance. Quindi e questo ritorna, diciamo, la camminata fa un giro, quindi parte dal teatro. Biblioteca Quarticciolo e torna lì dove poi io passo il testimone a Bianca. Quante tappe sono? Sono quattro. Passiamo questa volta, rispetto all'altra volta siamo stati in luoghi all'aperto, era il 4 settembre, questa volta andiamo proprio in dei luoghi reali del Quarticciolo, quindi è molto interessante perché andiamo in dei posti che sembrano un po' appartenere al passato, e quindi tipo la Bocciofila, il centro anziani, passiamo per questi, il capolinea del 14, che mi è stato suggerito come tappa da una psicologa che fa un servizio di assistenza lì, che si chiama La Cura, questo servizio, e mi ha detto che lei è del Quarticciolo, mi ha detto il capolinea del 14 è la porta dell'inferno, se volete la promessa di andarsene. Io adoro il capolinea del 14 è un luogo dove si arenano, come avrebbe detto Victor Cavallo, dove si arenano i tonni ubriachi che sono i tram. A proposito di street art, stavo pensando a quell'opera che è comparsa in vari punti di Roma con Pasolini che tiene, esatto, in braccio il suo corpo stesso martoriato dopo la l'idroscala. Pietà, sì. Comunque, quindi non immaginatevi un percorso multimediale, ma non estremamente faticoso. In realtà è una passeggiata. No, è una passeggiata nel quartiere, ci sono le fermate, appunto, le stazioni in cui c'è il poema e quindi c'è il tempo di stare, insomma, nei luoghi. L'altra volta abbiamo anche ballato a un certo punto. Io spero che al centro anziani ci sia il maestro di danza e si possa fare quattro salti, insomma, così come ai tempi dei tè danzanti. Almeno un valzer. Io avrei amato che Banda Iorona potesse trasportare tutta la fonica. Ma lo faremo, magari lo faremo. In quel momento lei starà facendo il check, le luci in teatro. Comunque, quindi tu approderai come ultima stazione, sì, di nuovo di fronte all'ingresso del Teatro Quarticciolo, questo diciamo prima delle 8 più o meno è questa, esatto, idea. Prima delle 8 ci sarà una mezz'ora di pausa in cui si potrà andare al famoso bar del Teatro Quarticciolo, che sì. È un punto importantissimo, ridileante, e alle 8:30 si entra al teatro per usufruire della seconda parte dello spettacolo, che è il concerto Musica e parole per Pierpaolo della Banda Iorona, in cui noi ci prendiamo questo enorme lusso di poter cantare alcuni dei brani che Pasolini ha scritto, su questo c'è molto da dire, insomma, a cui abbiamo aggiunto l'unico, diciamo, sono state scritte molte canzoni postume, basta ricordare De André, De Gregori, insomma, non nomi, non pizza e fighi, come si dice, hanno scritto canzoni per Pasolini, oltre a tantissimi altri autori anche contemporanei. In realtà l'interesse su Pasolini è veramente molto potente anche in questo periodo. L'unica canzone postuma che avevamo aggiunto noi, che eseguivo già 10 anni fa, è Il lamento per la morte di Pasolini di Giovanna Marini, canzone, brano a cui sono particolarmente affezionata. Lei lo scrisse, lei era molto amica, ha preso le botte insieme dalla polizia, insomma, a Venezia, credo, se non ricordo male. E un anno dopo la morte lei compone questo lamento, che è bellissimo ed è una via crucis in qualche modo. Quindi sei stata a vederla con il coro alla... Giovanna, diciamo, io la conosco da tanti anni perché io frequentavo la scuola di musica popolare di Testaccio, parliamo del 90, anni 90. Oddio, sì, o forse i primi del 2000. In realtà io sono age, quindi la gente mi guarda, no guarda che sì, è così. E quindi Giovanna la conosco, la conoscevo, sono stata a casa sua a giocare una terribile tombola degli orrori, una cosa fighissima. E lei ha scritto una piccola introduzione al primo disco che abbiamo fatto, quello che si chiama Romana, quello del 2004. E quando ho eseguito, poi io ho portato il lamento in un progetto in Colombia, vabbè, ma questa è un'altra storia, quasi dice, l'ho cantato in spagnolo, perché in castigliano. E lei poi mi scrisse dicendomi che era una versione che le era piaciuta moltissimo, e queste sono le cose che ti riempiono, insomma, te musicista, ecco. Una curiosità, c'è anche il pezzo di Modugno? Certo, ovviamente. Allora, il pezzo di Modugno, che si chiama Cosa sono le nuvole, è il testo è sempre di Pierpaolo Pasolini, e Modugno scrisse la musica, e lì si sente proprio questo gemellaggio. Poi Modugno era un personaggio interessantissimo, anche nell'ultima parte della sua vita è stato potente anche politicamente, insomma, un gran bel personaggio. E io personalmente adoro la versione degli Avion Travel, devo dire, ovviamente, per me. Sì. E poi Modugno aveva musicato i titoli di testa di Uccellacci Uccellini, e quella era una cosa, una follia meravigliosa. Venivano sempre cantati i titoli di testa, cioè anche con una specie di poesiola, no? Sì. Ha rischiato, ha rischiato i suoi quattrini, capito, no? Sì. Però era sempre Pasolini che voleva compiere queste sfide. Era questo anche il discorso legato alla si possono comporre dei testi per le canzonette, lui diceva, all'epoca si chiamava così, la musica leggera, non per niente. Noi sappiamo adesso che la musica non è leggera, la musica anche può essere pop, forse, nel senso di popular o così, ma non è mai leggera. Quindi attraverso le canzoni possono passare veramente tante tante cose, lo sappiamo. Tony, adesso stavo pensando al lungo tributo che Roma, il teatro a Roma, sta dando a Pasolini nell'anniversario, devo dire anche con risultati notevoli. Cosa ne pensi in proposito? Beh, mi sembra molto bello, mi sembra anche perché quello che vedo è che si cerca appunto di cogliere una lezione per l'oggi su Pasolini, quindi non si cade dentro al voler essere pasoliniani, ma si cerca anche di leggere, prendere quelle parole e vedere che effetto fanno oggi, proprio dette e buttate un po' anche lì nelle situazioni. Quindi quello che io sto vedendo di altri spettacoli, performance, così, quello che mi piace molto è proprio questo, che non c'è questo gusto imitativo, ma c'è invece una voglia proprio di restituire anche uno spirito, di cogliere uno spirito e restituirlo. E questo io credo che credo molto che in qualche modo lui ci stia ancora un po' parlando. Adesso faccio quello esoterico, però in questa bellissima giornata di oggi, non lo so, mi viene da pensare che ci stia un po', ci tiene ancora un po' a noi italiani, romani. E quindi un po' come io l'ho visto in questa tante volte l'ho visto che ogni volta che ho fatto un passo anche inconsapevole nella sua direzione tutto si è aperto un po' così. Io sono nato il suo stesso giorno, per questo questa fissa, chiamiamola così, e quindi questa storia delle minacce l'avevo saputa perché quando lui poi dopo Pomidoro è andato al Biondo Tevere, il proprietario del Biondo Tevere me l'ha raccontato la moglie che era lì quella sera, ha chiuso tutte le saracinesche quando sono arrivati al Biondo Tevere e lei ha detto: ma perché chiudi? C'è solo Pierpaolo e questo ragazzo. E lui ha detto: è stato più volte minacciato. Quindi diciamo che c'era una consapevolezza chiaramente che quello che di un pericolo. Però quello che ci piace appunto, che nonostante, ed è quello che secondo me le ceneri di Gramsci raccontano ancora bene, che nonostante la coscienza della storia e del vuoto della storia e anche del pericolo di denunciare questo vuoto, si vive, si cerca la vita, si cerca la sessualità, che è una forma fortissima di mostrare la propria vita, la propria voglia. Questo, noi siamo un paese molto moralista ancora oggi, quindi a me piace pensare che lui forse con la coscienza di sapere che stava per essere ucciso si è concesso un'ultima botta di sesso bella, che poi invece è finita male perché dietro c'era altro, chiaramente non da parte sua. Ho detto troppa roba, no. E quindi questo, però quello che, ecco, ritornando alla cosa, sono molto contento che invece si celebri perché lo merita. Bianca, e tu cosa vivi dell'attualità del pensiero pasoliniano? Ma per me Pasolini è veramente talmente attuale, io lo percepisco in tante cose di questa città, della politica italiana, anche la sua incazzatura, anche se poi lui non si arrabbiava veramente, non mi pare che fosse uno arrabbiato, era costantemente urtato dalle cose e lo dichiarava nella sua modalità, che era quella artistica, poetica, visuale, visionaria, per questo che ancora è così contemporaneo. Noi Bandaiorona, diciamo, nella nostra modestia, cerchiamo di ci dichiariamo pasoliniane e cerchiamo, quando raccontiamo la città contemporanea o il nostro percorso personale, cerchiamo di essere afferenti al suo pensiero. E devo dire, talmente potente questa cosa, che molto prima che uscisse fuori questa provocazione di Toni Allotta nel partecipare a questo progetto come cani senza padrone, noi abbiamo composto un brano che forse potremmo far sentire adesso, visto che ne parliamo. Sì, in chiusura andiamo con Sì, è un brano che abbiamo poi scritto per Renoiz, per la compilation del decennale della morte di Renato Viaggetti. E abbiamo scritto un brano, ci siamo prese il lusso, dico sempre declino al femminile perché siamo un gruppo a forte componente femminile e ci teniamo molto a ricordarlo. Ci siamo presi il lusso di comporre una canzone in cui in realtà io non canto, ed è un po' la provocazione estrema. Leggo un io non sono un'attrice, quindi leggo un testo che abbiamo scritto insieme a un altro compagno di viaggio che si chiama Carlo il Cambogia, Er Cambogia si dice a Roma, e Carlo Catalisano, abbiamo scritto questo testo insieme e a un certo punto citiamo Pasolini, cioè un famoso testo del 62 in cui Pasolini parla del fascismo, tant'è vero che è talmente per me rilevante che il titolo è I fascismi ora, dove il titolo del testo di Pasolini era Il fascismo ora. Per me ci sono i fascismi ora, vanno declinati in senso contemporaneo in questo modo. Quindi c'è, infatti cito all'interno, c'è una citazione di Pasolini all'interno di questo testo, dopo lo facciamo sentire. Anche questo fa parte del nuovo disco che speriamo esca entro la primavera, appunto siamo in questa addirittura di lavoro, e sarà un disco un po' strano perché sarà un po' provocatorio, ci saranno dei percorsi anche elettronici, dei tentativi di esplorare anche musicalmente altrove. Mentre sul palco di domani Noi appunto porteremo i contenuti pasoliniani, ma anche appunto il percorso di Banda Iorona relativo a Roma. Saremo in tre, ci sarò io alla voce, poi ci sarà Desiree Infascelli alla fisarmonica e Daniele Ercoli al contrabbasso, e la collaborazione per Tony è con Isola Teatro, sì. Mentre noi abbiamo Rapsodica Eventi con Alberto Menenti che ci supportano in questo percorso anche esplorativo. Vorrei ricordare un fatto pragmatico: prima della performance di Tony, prima delle 18:30, ci saranno gli addetti della biglietteria del teatro che sbiglietteranno prima della performance di Tony di fronte al teatro, e il biglietto è cumulativo per i due spettacoli, quindi chi vuole può soffrire anche solo della performance di Tony o solo del concerto di Banda Iorona alle 8:30, ma in realtà il biglietto comprende entrambi i percorsi, quindi chi vuole può acquistare il biglietto prima della performance di Tony, altrimenti ci sarà l'usuale cassa del teatro prima del concerto di Banda Iorona. Noi speriamo che, siccome abbiamo fatto sì che non siano cose pesanti, cioè che sia possibile soffrire agevolmente di, sì, entrambe le performance, e Tony peraltro tornerà sul palco anche durante il concerto di Banda Iorona e leggerà questo, non per eccesso di ego, ma semplicemente per dimostrare che stiamo lavorando insieme, certo, anche se non è così, perché concepire un progetto è anche a volte è sparire, però anche assumersi anche poi dopo il piacere di appunto di condividere un tratto proprio visivo di strada insieme. Tony, ricordiamo l'appuntamento in chiusura e diamo, sì, anche riferimenti web per le informazioni. Ok, allora l'appuntamento è domani alle 18:30 davanti al Teatro Biblioteca Quarticciolo, che sta via Ostuni 8, Roma, Quarticciolo. Si arriva appunto comodamente col 14, no, che fa capolinea lì vicino, e dove poi vi porterò io in visita se non l'avrete preso. E alle 20:30 invece inizia il concerto dopo la performance itinerante che girerà il quartiere. Alle 20:30 c'è il concerto dedica a Pierpaolo Pasolini, parole e musica in dedica a Pierpaolo Pasolini di Banda Iorona. I riferimenti sono il sito web del Teatro Quarticciolo, che credo sia www.teatrobibliotecaquarticciolo.it. E noi li ringraziamo fortemente anche, sì, per aver... Sì, sì, sì, assolutamente, per averci sostenuto. E poi Isola Teatro. Io ringrazio Isola Teatro, di cui faccio parte, che è un collettivo di artisti, e questo progetto, come Cani senza padrone, fa parte di Sassolini, che è questo percorso drammaturgico nella città di Roma che noi ci siamo inventati, dove c'è proprio l'idea di spostarsi con varie iniziative nella città e insieme ad altri artisti, quindi condividere il cammino insieme ad altri, e in questo caso con Banda Iorona, con cui siamo veramente molto felici perché sta nascendo una bellissima collaborazione. Bianca, i riferimenti vostri, e poi ci presenti il brano con cui chiudiamo. Sì, i nostri riferimenti, ovviamente non solo per lo spettacolo, sono www.bandaiorona.it. Banda Iorona si scrive con la J o con la Jota, a seconda, la Illunga credo sarebbe in italiano, no? No, non riesco mai. Quindi bandaiorona.it, oppure il Facebook Banda Iorona, / Banda Iorona, insomma. È abbastanza facile trovarci, ma soprattutto appunto la pagina del Teatro Quarticciolo di cui ci sentiamo di sostenere fortemente. In realtà potrei dire www.isolateatro.com, l'ho detto, però in realtà è più importante in questo percorso invece raccontare anche gli spazi che collaborano, esatto, insieme, perché non sono, cerchiamo sempre di fare dei progetti in collaborazione con gli spazi, in modo che le cose siano poi difese da tutti, perché c'è bisogno, ecco, del sostegno di più persone rispetto anche a qualcosa che sembra molto semplice, fatto in strada, lì per lì, invece lotta ha bisogno. E sostegno. A lotta e sostegno. Il brano? Il brano si chiama I fascismi ora ed si trova nella compilation di Renoiz per ora, e poi verrà ripubblicato anche nel nostro disco Futuro Veniente. Ancora grazie e complimenti, alla prossima. Grazie a voi. E viva la festa dei morti in più di quella dei santi.

senza file me si ce sei Gesù Cristo. Beh, grazie. Grazie Bianca, ricordiamolo nuovamente domani Tony dalle 18:30 al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e poi venite a godere di questa voce meravigliosa alle 20:30. Grazie, ma questa è Pasolini che parla. Lo so, ma tu gli hai dato proprio corpo e anima. Grazie, a domani al Teatro Quarticciolo.